Ragni costruiscono le loro tele nei nostri crani stanchi di lottare. Ragni ci rubano libertà, fantasia, ricordi, speranze. Tutti ordinati, puliti. Nostre bandiere, verrà il momento in cui si chiamerà solo libertà, libertà. Peso delle tue carezze.